Una buonasera, un buongiorno, insomma un saluto da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Tornato anche per questa nuova, insomma, puntata Rhythm and Noise. E andiamo a prendere quello che qua da queste parti a 451 frammenti sonori, quello che è sì, una strana dinamica che si è venuta a creare da circa dagli anni 80 in poi. Prima ci sono state anche delle situazioni sonore che andavano, insomma, così a trattare il ritmo con quel po' di rumore, ma di fatto il noise insieme all'industrial si sviluppa pienamente, insomma, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, perlomeno in termini codificati, ecco. E dentro questo sviluppo che trasversale tra certo post-punk, dentro certa industrial, dentro certa sperimentazione tout court elettronica, e anche, perché no, disegni iper psichedelici, quindi anche lì magari in opposto, perlomeno in termini di immaginario rispetto ai post-punker, ma di fatto, insomma, è più un'attitudine, una ricerca, insomma, su quello che è un modo di intendere la composizione sonora o la decomposizione sonora, perché tante volte, e questa sera sentiremo, insomma, alcuni esempi, anche ovvio, non stiamo parlando di fama in termini assoluti, ma in termini relativi assolutamente sì, perché se pensiamo, insomma, che questa attitudine, come dicevo prima, nasce con Splendor Geometrico, gruppo di Stracult, non cult e basta, ma di Stracult, che nasce in Spagna, poi ha una sorta di anche filiazione italiana, ma alla fine degli anni Ottanta, con veramente una particolarità, appunto quella di prendere l'industrial, il suono creato da Trubin Bristol, Cabaret Voltaire, da buona parte di Sheffield, elettronica, e farlo diventare una sorta di ritmica anche impazzata, con tanto, insomma, di anche motoriche che accende veramente dischi fenomenali, soprattutto, insomma, quelli appunto della decada degli anni Ottanta, che daranno anche per molti versi poi un'altra via a certe techno. Ecco, se molta techno degli anni 90 così si riferiva all'industrial e viceversa, molti, insomma, che venivano dall'industrial parlavano di paternità rispetto a certi suoni techno, beh, bisogna dire forse che molte erano così le affinità elettive, ma come suono probabilmente gli Splendor Geometrico veramente hanno creato una non corrente, forse è un po' troppo, però, come ripeto, insomma, attitudine che ha dato appunto quella specificità, insomma, a ritmiche anche piuttosto feroci e con tanto appunto di noise, tant'è che la particolarità di Splendor Geometrico, che sarà un po' leggeranno, insomma, nelle due parti di 451 appunto Rhythm and Noise, in compagnia, insomma, di Max Macchia. Questo, insomma, va più o meno da sé, insomma, credo, spero, non lo so. E hanno creato una sorta di sintesi sonora, prendendo, insomma, anche spunto dal famoso manifesto futurista, spunto appunto quello legato allo splendore geometrico. Hanno creato proprio una sintesi: dentro il ritmo c'è il rumore, viceversa, quindi un suono decisamente sintetico, nel senso appunto di dialettica, insomma, tra rumore e appunto battuta. Sicuramente dentro quello che potremmo considerare appunto una sorta di snodo poi alla fine degli anni Ottanta, quindi con la nascita di certa techno che poi per molti versi si evolverà anche in techno noise. Beh, sicuramente da citare e da ascoltare, con questo insomma iniziamo questo 451 Rhythm and Noise. Beh, Tanning Circuits hanno fatto scuola, soltanto due lavori tra l'altro editi in cassetta, che insomma in questi anni al di fuori dell'Italia, ma anche in Italia insomma adesso si incominciano a vedere anche di più, soprattutto nel circuito underground, sì, nel circuito underground anche da un bel po', e soltanto due cassette per Circuit Tanning Circuit tra la fine degli anni 80 e primi 90, e creavano veramente qualche cosa di inaudito, con un suono che va tanto a impattare con l'acid, e quindi in questo caso ecco anche quel disegno iperdelico che vi dicevo, anche attraversato da certa acid di James Peori e James Oci, per esempio, tanto per citare insomma uno dei grandi così terroristi sonori e anche appunto forse ancora di più culturali, e dentro appunto l'acid tanto di noise e tanto di quella anche capacità riuscire a rendere flusso appunto il suono noise, quindi la capacità di appunto rendere psichedelico veramente in questo caso, con tanto appunto di rimando invece al vero e proprio noise elettronico che attraversa sicuramente Tanning Circuits. Ecco, sono arrivati anche loro, Splendor Geometrico, ve l'ho un po' detto, insomma, che sarebbero stati, come dire, alleggerebbero sicuramente dentro 451 in termini, insomma, assoluti, più che altro, insomma, quando andiamo sul noise, figuriamoci, insomma, se questa sera, insomma, dedicato, insomma, in questa puntata, in questa prima ora di Rhythm and Noise, non vengono citati anche direttamente per qualche secondo. In realtà quello che abbiamo ascoltato è Tanning Circuits, poi uniti a Sonar. Sonar è una delle esperienze più importanti per quanto riguarda quel passaggio anche veramente storico parte di Dirk Evans, veramente personaggio molto molto interessante, e per la grande capacità, intanto viene da quel Belgio dove nacque buona parte, insomma, dell'electronic body music, IBM, non da confondere con IBM, ok, che è Intelligence Dance Music, Front 242 assolutamente, i più ricordati. Dirk Evans formò un altro storico progetto, quel Absolute Body Control, che prima appunto dell'IBM belga soprattutto, ma non soltanto, anche in Canada ci furono, insomma, grosse situazioni che si mossero, se pensiamo, insomma, a Frontline Assembly oppure a Skinny Puppy, ad esempio. Tra l'altro un ex Skinny Puppy si è girato, insomma, per un po' di anni proprio in quella di Bologna, e Absolute Body Control riuscivano appunto a portare quel synth mischiato con quelle strane perturbazioni cold wave, quindi vicine anche a certa industrial, e anticiparono poi quello che appunto in terra belga, ma ho citato prima il Canada, potremmo citare, insomma, anche il cyberpunk mischiato, insomma, all'IBM della Vox Trax di Chicago, ad esempio, per parlare dei primi ministri, ma insomma ci dilungheremmo tanto, anche se è una faccenda piuttosto grossa, che magari in momenti in cui viene anche citato un po' così, diciamo, c'era tutto un po' alla cazzo di cane, ecco, alla mischietta, insomma, il cyberpunk. Allora forse bisognerebbe anche fare un po' di chiarezza su quello che, insomma, forse in termini letterari, ecco, è già più chiaro con Gibson e con anche la bella antologia, appunto, che è uscita sul cyberpunk qualche mese fa anche, appunto, in Italia. Ma sulla musica, insomma, c'è ancora un po' di una certa confusione. Sicuramente Dirk Evans, appunto, dal Belgio, con quel miscuglio tra synth pop e prime appunto avvisaglie dell'IBM, e quindi anche ad un modo di intendere poi il cyberpunk, sicuramente è uno dei padri, anche perché dopo, e questa è anche l'eccezionalità di Dirk Even, o Even, non so, probabilmente non so se è belga, francofono, comunque diciamo così in maniera neutra, Dirk Evans, poi non perdoneranno, insomma, chi lo sa, poi magari ditemelo anche se effettivamente bisogna pronunciarlo alla francese. Formerà i Clinic, storica formazione, e qua sì, IBM, ma molto più vicino a un certo suono di metal dance, tanto per citare un'altra delle correnti, sottocorrenti che stava dentro a quel calderone, se vogliamo, del cyberpunk, dell'electronic body music, come si chiamava all'epoca. E poi i Dive, i Clinic sicuramente hanno un impatto più industrial, appunto vicini a certa metal dance di SPK, che appunto titolavano proprio con un pezzo così questa corrente. Poi tra l'altro anche questa è stata riscoperta, insomma, con una bella compilation anche dell'uomo dei playgroup, appunto chiamata appunto Metal Dance. E i Dive poi tra la fine degli anni 80 e primi 90, qua sì, con un suono che si sviluppava tra IBM e nuove correnti, insomma, industrial dance techno, ecco, qua veramente c'è uno snodo anche molto, molto interessante, che si sviluppa poi con Sonar, che abbiamo sentito appunto, e Tunning Circuits, come dicevo prima, e poi in continuità a Sonar dal loro primo disco del 96, altro progetto appunto di Dirk Evans, che lavorava invece su una techno noise vera e propria. Ecco qua la faccenda probabilmente si complica, perché molti magari avranno anche riconosciuto un suono techno rave, solo che magari nei rave o molti rave, anche quelli vicino all'hardcore, sicuramente, insomma, le sonorità rhythm and noise influenzeranno di fatto, o andranno, insomma, per certi versi anche in parallelo con un suono hardcore, techno hardcore. Hardcore e ha comunque una cassa sicuramente più pulita, non appunto così sporcata, una cassa quasi rotta, ecco perché forse magari a qualcuno è venuto in mente il suono rave, forse anche con quel senso un po' di stortura legata appunto a tanto noise che dentro queste ritmiche, a queste costruzioni appunto sonore. E un'altra delle così figure sicuramente più legate anche questa alla techno, anche se qua veramente anche qua c'è tanto tanto rumore, è quella di Convert. Lo andiamo a prendere tra l'altro da uno dei suoi live di qualche anno fa, una live a Das Bunker, che è un locale storico proprio legato al rhythm and noise, alla techno legata al rumore, al noise, techno industrial, e quindi come non ascoltare appunto Convert in una situazione forse tra le più, forse la più importante, legata a un certo modo di intendere il suono tecnoide, ecco, chiamiamolo così. We'll be right back. ancora qualche secondo di splendore geometrico, con i cursori che esplodono, e mi è difficile controllarli, è difficile anche controllare proprio come dire l'impatto violento che hanno certe musiche. Beh, probabilmente dato anche da un clima, ecco, che passa dal depressivo al ansiogeno, decisamente, insomma, brutale, brutalista anche. Beh, intanto, insomma, per citare un'altra delle così sottocorrenti di una sottocorrente che è Rhythm and Noise, di un'attitudine, ecco, per meglio dire, ecco, se non veramente qua sembrano i fiumi carsici qua, e tra sottocorrenti e sottocorrenti, Rhythm and Noise è un'attitudine che è dentro molto anche brutismo sonoro che viene da una certa scuola concreta, che poi, insomma, tramite sempre il grande grande influsso, la grande grande network, anche in termini concettuali, quello che è stato, insomma, l'industria, l'internazionale, legata appunto a un certo modo di intendere la musica e le arti, perché no, anche una sorta di guerra psichica, perché no, altrettanto anche politica, con la tattica dello shock, che tante volte, insomma, è anche andata a segno, altre volte, insomma, ha creato momenti, insomma, di ambiguità anche interessante, che poi però tante volte si è anche, come dire, andata a deragliare dentro così forme un po', come dire, o estetiche o così, insomma, un po' a binario morto, probabilmente anche ripercorrendo, perché no, certe forme anche dell'avanguardia. D'altronde è molto del rhythm and noise, se pensiamo appunto all'esplendore geometrico, lo stesso, insomma, creatore del futurismo italiano, diceva, insomma, di buttare gli artisti futuristi tout court, insomma, intorno alla trentina d'anni, quindi, ecco, la dice lunga su quanto, insomma, non era soltanto probabilmente una buttata, ma sul fatto che, insomma, non come dire, ha delle fisiologie anche l'avanguardia, seppur dentro appunto una dialettica, e quindi incessante, una sintesi incessante, che va appunto a creare ulteriormente altre pratiche, come dire, appunto dialettiche, altri processi di tal tipo, quello che si è venuto a creare appunto da esplendore geometrico, da un certo modo di intendere l'industrial sound, ma poi abbiamo anche visto e sentito con Tanning Circuits addirittura certe forme iperdeliche, così acid, techno acid, con tanto appunto di rumore, forse più psichedelico, freak che invece industrial, sonar che con Dirk Evans riprende tanto del synth pop virato su Cold Wave, poi dopo l'IBM industrial secca di Clinic, grandi Clinic, e poi Dive invece con un disegno più ondivago dentro le elettroniche, già diventate, insomma, techno negli anni 90, la dance, insomma, che si trasformava da metal dance, da cyberpunk, IBM appunto in quella grande via poi aperta appunto a un modo di intendere la battuta, che è stata quella appunto della techno, e poi appunto sonar che fanno diventare, insomma, la techno qualcosa di molto molto rumorista, brutismo poi che attraversa per molti esperti Converter appena ascoltato, tra l'altro da Sbunker locale, sociale e anche studio di registrazione in quella di Los Angeles, tra l'altro insomma piuttosto di culto per chi ama un certo tipo di suono, insomma, e anche un certo modo di vivere, insomma, ecco la dance, che a questo punto insomma diventa assai pericolosa, ecco, quantomeno. E se poi dobbiamo citare altri grandi maestri di questo suono, maestri insomma del noise to core, non mancano uscite ogni anno, quelle 5-6 uscite quantomeno ci sono da parte di Merzbow. Poi bisogna insomma sempre essere capaci di prendere magari delle cose più o meno importanti insomma del grande giapponese, che comunque mai sfigura, perlomeno insomma per chi ama le pirotecniche e arditezze appunto di noise di Merzbow. Ma sicuramente insomma in questo 2022, quello con Rardo Bernocchi è disco decisamente interessante, anche per indicare come dice Vittore Baroni recensendo appunto questo disco, un suono che postumano, insomma, forse una dance definitivamente appunto postumana, quindi definitivamente insomma legata ancora all'uomo. D'altronde insomma, sempre citando insomma altrettanto grande Baroni, anche tra l'altro oltre che come agitatore culturale anche delle cose fatte a livello di cut-up sonoro veramente molto molto interessanti, e l'abbiamo anche tra l'altro passate qua, citando sempre appunto la sua recensione su appunto questo disco di Bernocchi e Merzbow, sono 40 anni insomma che i due ci indicano, per Merzbow sicuramente, per Bernocchi ci siamo quasi sui 40 anni, di poco, ma mancano di poco insomma perché raggiunga quella cifra importante in termini insomma di esperienza musicale, chiaramente, e ci indicano appunto un suono definitivo, un suono insomma veramente sì, post bomba, veramente, ecco, come dire, vengono anche ripresi certi immaginari che sembravano insomma anche a un certo punto veramente abbandonati nel passato, come appunto scenari apocalittici che ovviamente insomma andavano dentro quell'immaginario da bomba atomica, ma non è più super immaginario, ecco, come dire, legato a strani personaggi o a un periodo storico, ecco, vabbè. E appunto Bernocchi e Merzbow da questo loro gioiello noise, se si può trattare insomma un gioiello in maniera rumorista. e da Bernocchi e Merzbo con i loro Partners and Mechanism, veramente notevole, soprattutto nella seconda traccia, quando i due riescono, così non che nella prima non trovino un equilibrio, ma nella seconda traccia, perché insomma il disco è in due tracce, riescono a trovare veramente un equilibrio tra un noise che si fa comunque fluido e queste ritmiche sotto a mo' di ribollore che veramente creano un'atmosfera un fascino, se vogliamo, un po' morboso, ma c'è tutto. E per finire, le Syndacat, prima citavo insomma il brutismo, come non inserire, e certi francesi, appunto citavo prima certa musica concreta che va a impattare tanto con appunto un certo industrial che si è sviluppato appunto non a caso in terra francese, dove è nata appunto la musica concreta, e troviamo appunto personaggi incredibili come le Syndacat, ma Pacific 231, e poi avremo modo magari anche nella seconda ora di 451 Rhythm and Noise da ascoltare un altro progetto appunto francese assai interessante, appunto legato a queste ritmiche rumoriste. E Max Machia vi saluta, appunto vi lascia le Syndicat da un loro lavoro Tornando Indietro, insomma, di quasi 40 anni, appunto, che citavo prima, di appunto ritmica che si fa noise, appunto talmente talmente sparata come ritmica che appunto diventa una sorta di tappeto sonoro, e poi un rumore che diventa ritmico nel corso del pezzo. Max Machia vi saluta, fate bravi, mi raccomando. Ciao.